We'll be right back. calpestando la lealtà. Cresce ed uccide nel tempo. La sua umanità. Thank you. Thank you.

voglia sorda che mi ha risvegliato tu con un mondo che non ho. Si nascondono nel buio. Luci spente sugli altari di una stupida umiltà. Senza nulla dire, senza nulla fare, è un diritto che io ho. Thank you. Thank you.